16.07, appena scoccate, inizia una puntata di interferenze qua negli studi di Via Cecchi 21/A e vi salutano Ilaria. Cominciamo subito con darvi i contatti per poter comunicare con noi in diretta, direttamente qua dentro gli studi, gli acquari di Radio Blackout, e quindi il numero di cellulare per scrivere messaggini è 346-6673-263, mentre il telefono fisso per fare squillini o comunicarci qualcosa in diretta nel caso succedessero cose strane nelle strade di Torino, voleste avvertire i radioascoltatori e le radioascoltatrici, è lo 011-2495-669. Rinnovo i saluti visto che prima l'ho fatto a microfono spento, quindi un saluto anche da Francesca. Per aprire questa puntata vogliamo mettere un pezzo musicale da dedicare ad Act, militante antifascista ucciso 10 anni fa. A Milano, lo dedichiamo insomma a lui, al suo ricordo e a tutte quelle persone che ieri hanno riempito le strade di Milano per il corteo che lo ha ricordato, sottolineando come insomma sia necessario andare oltre il semplice ricordo, ma insomma attualizzare la lotta antifascista in tutte le battaglie di oggi e di domani. Quindi il prossimo pezzo lo dedichiamo ad Ax e alle decine di migliaia di persone che ieri hanno attraversato Milano. Stalingrado era una canzone che Dax amava particolarmente. Questa è una cover di Stalingrado che dedichiamo a lui e a tutti gli altri caduti nella lotta contro il fascismo. Action with me, colder than words. We don't need no antifa 16:12, allora sulle note di questo pezzo di Zulu con cui abbiamo voluto ricordare ancora una volta Dax, cominciamo invece col presentarvi la puntata di Interferenze per questa settimana. Inizieremo come di consueto con una parte dedicata alla rassegna stampa di questa settimana, concentrandoci su un paio di notizie. Parleremo quindi di questo nuovo Papa, ma ne parleremo in senso chiaramente critico, raccontandovi insomma che esistono degli occhi ben aperti e delle orecchie molto molto tese rispetto a quelle che invece è la memoria e il ricordo della presenza della Chiesa Cattolica, in particolare della parte istituzionale della Chiesa che ha collaborato con i regimi in Sud America, in Argentina in particolare, dove Papa Francesco è stato per lungo tempo provinciale dei Gesuiti, complice in numerose occasioni della dittatura e insomma complice anche in prima persona di aver in qualche modo approfittato della dittatura per liberarsi anche di personaggi scomodi all'interno della sua stessa istituzione ecclesiastica. Tra i desaparecidos esistono una serie di sacerdoti insomma che facevano parte della cosiddetta teologia della liberazione, e tra queste persone che sono che vogliono mantenere viva la memoria, che non vogliono far cancellare questo ricordo, questa verità storica, le madri di Plaza de Mayo sono le prime, in prima fila insomma, come sempre, nel mantenere forte e vivo il ricordo non solo dei loro figli ma di tutti i desaparecidos. E poi andremo avanti con una diretta, un'iniziativa che si è portata avanti in diverse città italiane e che ha visto la sua conclusione l'altro ieri in quel di Bari. Una compagna proveniente dalle lotte per il diritto alla salute e al welfare dalla Grecia si è recata in diverse città italiane a fare una serie di discussioni e dibattiti sullo stato dell'austerity rispetto appunto al diritto alla salute e in particolare a quella che è la situazione greca, che sappiamo essere una dei tasti dolenti di questa Europa della Troica. Questo insomma più o meno quanto per questa puntata, ci riserviamo magari di aggiungere qualcosa in chiusura. Per quanto riguarda invece la parte musicale, come di consueto anche quest'oggi vi presentiamo un artista, questa domenica la passeremo in compagnia delle canzoni di Melissa Aufdermaur, mi scuso in anticipo per l'eventuale pronuncia pessima, comunque bassista, cantante, fotografa canadese che ha iniziato suonando con il gruppo Tinker e poi negli Smashing Pumpkins, con cui aveva avuto modo di conoscerli aprendo alcuni dei loro concerti, e infine nel gruppo delle Hall, con cui ha collaborato solo però nell'ultima parte, quindi solo all'ultimo album, quando insomma il gruppo era ormai prossimo a sciogliersi. Nel 2003 invece ha poi iniziato la carriera solista, all'attivo insomma alcuni album, quindi oggi vi presenteremo appunto alcuni suoi pezzi che fanno parte appunto della sua carriera da solista. Il primo pezzo che vi proponiamo è Follow the Waves. Prima di cominciare con la selezione musicale vorrei semplicemente fare un ricordo, visto che prima si parlava di Dax, di un'altra morte tragica risalente a 10 anni fa, esattamente il 16 marzo. Rachel Corrie è una volontaria dell'International Solidarity Movement che viene schiacciata da una ruspa militare israeliana mentre si opponeva alla distruzione di una casa palestinese, quindi anche lei nei nostri cuori e nelle nostre memorie in questi giorni di lotta. Saluto durante la canzone di Melissa, cantautrice canadese, un saluto va a Pamela che ci sta ascoltando, quindi buon ascolto Pam. I'm not afraid to die. shuffle his deck clean. 16 e 21, allora iniziamo ad entrare un po' nel vivo di questa puntata. Come vi abbiamo annunciato poco fa, volevamo insomma spendere due parole sull'elezione del nuovo Papa. Insomma, a pochissime ore dal suo insediamento, sul web hanno iniziato insomma a circolare alcuni articoli risalenti anche ad alcuni anni fa, che cercavano un po' di portare in luce alcuni lati, alcune vicende legate al Papa, che ovviamente non hanno trovato spazio insomma nel mainstream impegnato a celebrare la sua salita a pontefice. In particolare insomma quello che gli viene contestato è la sua collusione col regime di Videla in Argentina durante gli anni 70, e la sua avversione comune insomma a molti dei vertici della Chiesa Cattolica alla cosiddetta teologia della liberazione, che predicava insomma una maggiore vicinanza alle tematiche sociali, e che spesso insomma si era anche unita alle lotte di liberazione dei paesi latinoamericani. E insomma sono molte le testimonianze che in questo senso hanno cercato di aggiungere alla storia di Bergoglio quello che insomma i media non hanno detto. In particolare la protesta insomma delle madri di Plaza de Mayo, che hanno ricordato appunto le sue collusioni, che non hanno commentato particolarmente la sua elezione a Papa, ma anche sul web appunto in Argentina è circolata moltissimo questa immagine, segno di protesta, che recitava: il Papa stava in silenzio quando mio padre veniva torturato. Quindi insomma a dispetto di quanto ci è stato detto, quindi di un'Argentina unanimemente in festa per questa elezione, evidentemente qualche voce fuori dal coro c'era sicuramente, e qualche ombra attorno a questa nuova figura insomma non è, era importante sottolinearla. E chiudo anche dando un'altra nota rispetto a quelle che sono gli scheletri nell'armadio, che vengono fuori, per fortuna non vengono dimenticati, e che escono in questo momento all'occasione dell'elezione. È una dichiarazione mai smentita, datata 2007, dell'allora arcivescovo di Buenos Aires, oggi eletto Papa, in riferimento alla candidatura alla presidenziale dell'attuale presidente Cristina Kirchner, presidentessa argentina. E appunto il caro gesuita si è permesso di dire che le donne sono naturalmente inadatte per compiti politici. L'ordine naturale e i fatti ci insegnano che l'uomo è un uomo politico per eccellenza. Le scritture ci mostrano che le donne da sempre supportano il pensare e il creare dell'uomo, ma niente più di questo. Insomma, complimenti per l'analisi antropologica dell'essenza dell'essere umano e del binarismo naturale dei due generi. A rincarare la dose, Bergoglio avrebbe sottolineato la necessità di avere memoria. Abbiamo avuto una donna come presidente di nazione, tutti sappiamo come è finita. Il riferimento era chiaramente a Maria Perón, succeduta a suo marito, insomma con una serie di dinamiche di tipo populista, però insomma comunque una delle presidentesse più ricordate nella storia dell'Argentina. In questo momento, in seguito all'elezione del Papa, si ricordava anche qualche giorno fa sui giornali che l'attuale presidentessa dell'Argentina non rivolge parola al Papa da questa dichiarazione, insomma, quindi giustamente, dopo che uno dice che la persona che in realtà è stata eletta da tutto il popolo argentino è naturalmente inadatta a portare avanti delle politiche per un popolo solo perché la genetica dice così, secondo lui, insomma, questa è un po' la posizione non troppo sorprendente, insomma, alla luce della Chiesa Cattolica che il Papa ha tirato fuori. Detto questo, torniamo quindi con un po' di musica e poi riprendiamo con le dirette. Un attimo. We'll be right back. Sono le 16.34, passiamo alla seconda metà di questa puntata di Interferenze di oggi, domenica 17 marzo, giornata di neve qua a Torino. Insomma, abbiamo deciso di contattare una compagna di Bari, dove ieri si è svolto, l'altro ieri, un'assemblea dibattito con una compagna greca, Sonia Mitralia, che è venuta a parlare, insomma, in giro per l'Italia tenendo diversi momenti assembleari di discussione in diverse città italiane a proposito della situazione greca, in particolare della situazione riguardante la salute, il diritto alla salute e al welfare, un po' riguardo a quelli che sono invece le conseguenze rispetto alle politiche di austerity, alle politiche di tagli indiscriminati ai servizi pubblici. E insomma, la riflessione partiva dalla Grecia per perché chiaramente è una situazione tra le più disastrose nell'area europea, ma ha molto da dire alla situazione italiana, molto da dire a quello che sono gli andamenti politici delle scelte sui servizi. Quindi abbiamo in linea Ketty, una compagna del collettivo Cime di Queer, appunto da Bari. Ciao Ketty, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Ciao a tutte e a tutti. Ciao, senti, allora io ti chiederei innanzitutto di raccontarci com'è nata questa iniziativa un po' da voi e un po' rispetto al tour che questa compagnia ha intrapreso in giro per l'Italia. Allora, l'idea del tour è nata principalmente dopo il Social Forum di Firenze, dove appunto una serie di compagne femministe, tra cui Lidia Cirillo, hanno convocato insomma in quella sede una riunione abbastanza allargata per capire un po' come muoversi sui temi del debito e della crisi. E, diciamo, a seguito di questo incontro e a seguito diciamo di altri giri di chiamate, di riunioni, si è deciso appunto di ospitare questa compagna e quindi di fare questo tour in Italia per parlare un po' della questione del debito e della crisi. Ovviamente, come ben saprete, al Social Forum di Firenze appunto era un incontro internazionale dove c'erano comunque compagne femministe da tutta Europa, e infatti Sonia ha girato non solo in Italia, ma qualche mese fa ha girato anche in Francia. Ora addirittura ci raccontava che voleva girare anche in Spagna, che però per girare in Spagna hanno bisogno un po' più di tempo, perché comunque lì ci sono molti più gruppi femministi e quindi la cosa diventa un po' più complessa. E quindi così diciamo si è cercato di metter su questo progetto internazionale, un po' di solidarietà e di lotta contro il debito. Quindi è toccata anche la tappa di Bari. Così è nata anche la tappa di Bari. Noi siamo andate quindi come collettivo a seguire che cosa appunto si dicesse al Social Forum di Firenze, e ci è piaciuta molto la praticità, nonostante comunque l'età anagrafica fosse comunque differente dalla nostra. Ci è piaciuta molto l'impostazione data all'assemblea a Firenze, in quanto al di là come dire del dibattito sul debito e sull'economia, ci si è subito concentrate sul dare praticità diciamo proprio a queste idee, come dire, alla lotta al debito, e quindi subito poi come dire è nata l'idea di mettere su questo giro e di iniziare a parlare sì di debito, ma anche come dire di creare una rete di solidarietà tra compagne femministe, soprattutto diciamo per quelle situazioni un po' più gravi, come appunto può essere quella greca. Certo, difatti a proposito di praticità vedevo che insomma questo giro per l'Italia aveva anche l'intenzione di portare avanti una campagna di sostegno anche economico. Sì, infatti durante tutte le iniziative in giro per l'Italia, almeno da quello che abbiamo potuto seguire in mailing list, almeno noi a Bari l'abbiamo fatto, oltre diciamo il dibattito, il confronto e quindi la testimonianza di Sonia, si è cercato appunto di fare cene di autofinanziamento o comunque sottoscrizioni per raccogliere dei fondi, quindi da poter mandare in Grecia, perché appunto la situazione in Grecia è alquanto disastrosa, anche da quello che ci ha raccontato Sonia, è che noi difficilmente in Italia riusciamo come dire un po' a comprendere, perché non vengono passate molte informazioni, e infatti come dire la testimonianza di Sonia è alquanto drammatica, e quindi è nata proprio l'esigenza anche come dire di fare autofinanziamento e di mandare un po' di soldi lì per sostenere appunto le compagne femministe che sono coinvolte come dire attivamente proprio nelle città per poter affiancare percorsi diciamo come quello che può essere l'interruzione di gravidanza o anche la stessa come dire lo stesso mantenimento di strutture ospedaliere come appunto quella con cui collabora Sonia in una periferia da Atene, in un aeroporto. Abbiamo appunto fatto dei momenti auto-organizzati di supporto e di autofinanziamento per raccogliere un po' di soldi. Diciamo che una parte dei soldi li abbiamo dati a Sonia, perché appunto bisognava smezzare il viaggio in giro, il viaggio fatto da Sonia, mentre l'altra parte dei soldi diciamo che le varie realtà locali le hanno mantenute, quindi appena sarà pronto un conto corrente, delle dinamiche elettronica e mailing list, appunto verseremo questi soldi per le compagnie greche. Sì, leggevo che appunto questo progetto di sostegno sanitario alla periferia di Atene è una situazione completamente autogestita, giusto? Quindi al di fuori delle dinamiche. Sì, allora, da quello che ci ha raccontato Sonia, allora in pratica il sindaco di Atene ha destinato questa struttura, che è un ex aeroporto, diciamo a questo gruppo di volontari, medici, infermieri, per poter dare, come dire, proprio il primo livello di assistenza sanitaria, perché da quello che ci raccontava Sonia, la situazione è veramente drammatica. Infatti noi durante l'incontro eravamo abbastanza scosse da quello che raccontava, cioè ci raccontava per esempio che per le persone, come dire, che hanno problemi mentali e che hanno delle disabilità, dato che il governo di Atene, il governo greco ha praticamente tagliato tutti i fondi, sono state, come dire, riaccorpate in piccoli centri dove queste persone con disabilità, scusa, però è un po' difficile da dire perché mi sembra surreale, queste persone con disabilità appunto vengono rinchiuse, non vengono nutriti addirittura, molto spesso appunto ci sono dei decessi, manca proprio l'assistenza minima ed essenziale che, diciamo, bisognerebbe dare a delle persone con delle disabilità. Ci sono un po' di centri così in giro per la Grecia che sono veramente drammatiche, oppure ci ha raccontato che per un'interruzione di gravidanza bisogna pagare intorno agli 800-900 euro, e quindi, diciamo, questa raccolta fondi va proprio, diciamo, in questo senso, per supportare appunto queste strutture questa struttura auto-organizzata, autogestita da volontari alla periferia di Atene. È abbastanza toccante, insomma, immagino che anche sentirlo di persona sia stato molto forte. Credo che vivere quotidianamente una situazione in cui qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà è completamente lasciato sulle spalle della situazione personale di ogni persona, quindi se uno ha i soldi, se uno ha la famiglia dietro, se uno ha una certa rete può sopravvivere, se no è completamente abbandonato a se stesso, messo ai margini, appunto addirittura rinchiuso, come stavi dicendo tu adesso. Credo sia particolarmente toccante e forte da sentire, ma credo che sia anche molto importante ascoltare bene l'insegnamento che viene da questi racconti. Insomma, la direzione non è poi così differente da quella, dalla piega che stanno prendendo le politiche del welfare in Italia. Credo che questa riflessione da voi sia stata in qualche modo anche fatta, no? Dalle donne che hanno partecipato a questa assemblea. Sì, diciamo che sicuramente il primo obiettivo era quello, come dire, di creare una rete di solidarietà. Poi ovviamente il secondo obiettivo è anche quello, come dire, di paragonare e di fare un confronto rispetto a quello che le politiche dell'Unione Europea e della BCE stanno imponendo in Grecia e che pian piano ovviamente vorrebbero anche provare a fare in altri paesi, come appunto in Italia. Attraverso queste riunioni, soprattutto a Bari, noi abbiamo provato, come dire, a rimettere su un percorso femminista che sia prima di tutto anticapitalista e antifascista, perché lei ci parlava anche molto, come dire, della preoccupante situazione in Grecia, dove i gruppi fascisti e neonazisti, ovviamente come Alba Dorata, prendono più del 20% con tutto quello che ne comporta. Per esempio, un'altra cosa bruttissima che ci ha detto è che è stata fatta una campagna contro le prostitute, venivano proprio etichettate come streghe, addirittura portatori di AIDS, contagiavano, come dire, il maschio greco, siccome ci ha raccontato che loro, diciamo, questi gruppi fascisti e neonazisti giocano molto, a differenza di altri momenti storici, sulla spettacolarizzazione di queste battaglie, di queste cose, addirittura hanno fatto proprio una caccia alle streghe, hanno incappucciato delle donne denunciate, portate in questo misura, perché comunque lì c'è anche la questione del fatto che la polizia è molto vicina ad Albadorate, addirittura ci ha detto che il 70% della polizia è molto vicina ai gruppi fascisti e neonazisti, quindi ci ha detto questa cosa anche abbastanza drammatica, e quindi proprio da qui è nato anche, diciamo, l'esigenza venerdì, almeno su Bari, di creare dei gruppi che siano realmente femministi e antifasciste, in modo tale da poter comunque colmare quel vuoto che un po' in Italia, come ben sappiamo, c'è a sinistra, e per evitare appunto un disastro come quello che appunto sta succedendo in Grecia. Infatti poi vabbè, è finito su tutti i giornali quando appunto un parlamentare di Albadorate ha preso a schiaffi una donna in televisione, in un programma televisivo, un'altra parlamentare di Siriza. Cioè, questo livello, diciamo, in Grecia, e che è alquanto preoccupante, che dovrebbe far riflettere noi soprattutto sugli strumenti che dobbiamo adoperare giorno per giorno per evitare di arrivare a quella situazione. Assolutamente. Ti chiederei ancora un ultimo commento su una notizia vostra, della vostra zona, che è uscita oggi su Repubblica, credo che tu ne abbia sentito parlare, la questione di questa esplosione di antiabortisti all'interno degli ospedali di Bari, che insomma in sei tutti insieme a braccetta hanno deciso di dichiararsi obiettori dall'oggi al domani, lasciando completamente scoperta la ASL della zona barese di provincia, a parte leggo il policlinico, che però non fa parte dell'ASL. Questa notizia viene di sorpresa? Com'è un pochino la situazione lì nella zona di Bari e della Puglia rispetto all'applicazione della legge 194? Puoi farci un attimino un commento? Il commento è che noi lo sapevamo, nel senso che noi siamo un collettivo abbastanza giovane, nel senso che facciamo soprattutto politica LGBT, però ovviamente poi quando si fa LGBT si fa un certo tipo di politica, come dire, radicale, va da sé che inizia a fare anche femminismo, quindi un po' ce l'aspettavamo questa cosa, anche perché in realtà a Bari non c'è un movimento, una campagna, oppure come dire un livello di tensione alta rispetto a questa questione dei consultori. Cioè, voglio dire, comunque la Puglia è anche conosciuta per la questione del San Raffaele, dove comunque la Regione Puglia stava stanziando dei fondi a una clinica privata di matrice cattolica, che poi vabbè, questa cosa non è più avvenuta perché sono successi gli scandali sul San Raffaele. Quindi voglio dire, comunque la tendenza in Puglia, per quanto si possa immaginare questa Puglia rivoluzionaria assolutamente non è, è una notizia come quella di oggi la dimostra. È evidente che a fronte, diciamo, di una notizia così, così pesante per il territorio, proprio noi oggi stavamo pensando di convocare un'assemblea qui sul territorio e cercare di fare rete su sta cosa, anche poi a seguito, diciamo, dell'incontro con Sonia, e provare a fare un discorso un po' più di resistenza rispetto, diciamo, a queste pratiche di dominio sul corpo delle donne, che poi, come dire, si concretizza attraverso come dire, la negazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. E quindi assolutamente su questo credo che a breve lanceremo un'assemblea, proveremo a muoverci, anche perché al di là poi della battaglia, anche rispetto comunque che può essere politica, c'è da fare pure una battaglia di tipo sociale, perché comunque questo, cioè la 194 è un diritto delle donne e va rispettato. Cioè, va rispettato completamente, cioè le donne devono avere la possibilità di poter accedere a questo servizio gratuitamente, perché altrimenti, cioè, che facciamo? Andiamo alle cliniche private quando poi magari non riusciamo manco ad arrivare a fine mese, e magari le donne non hanno manco lavoro, cioè, nel senso che va fatto qualcosa proprio nell'immediato per assicurare alle donne soprattutto che non riescono, come dire, ad accedere alle strutture private questo servizio in modo gratuito. Assolutamente, quindi qualsiasi momento di mobilitazione che porterete avanti, comunque noi stiamo con le orecchie aperte per dare risalto anche qua dai microfoni di Blackout, quindi teneteci informate, siamo molto disponibili, insomma, a dare spazio a questo tipo di mobilitazioni, a questo tipo di momenti che si danno qua e là in Italia, quando insomma, le politiche della privatizzazione sanitaria danno spazio a questi personaggi antiabortisti e a tutto quello che ne consegue di profitto rispetto alla sanità privata, profitto che si fa, come dicevi tu appunto, sulla pelle, sui corpi delle donne. noi ti ringraziamo dai grazie a voi di Interferenze, insomma, buona lotta e buona lotta a voi compagne. Ciao. Ciao, ciao, a presto, ciao. Quando sono le 16:55 minuti chiudiamo la puntata di Interferenze con un'ultima segnalazione per la prossima settimana, un invito che vogliamo fare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a partecipare a un seminario che si terrà appunto questa settimana presso l'Università di Torino, presso Palazzo Nuovo, all'Aula 9, il giorno è mercoledì 20 alle 17:30, quindi l'incontro prosegue il percorso già iniziato qualche mese fa che abbiamo denominato What's Body, percorso che si dà come obiettivo quello di ragionare sulla domanda che cos'è il corpo, domanda che chiaramente sembra banale, ma la realtà è che appena si prova a dare una risposta questa non può essere univoca, chiara e insomma ultima. Ogni disciplina risponde per sé, insomma, dando una diversa prospettiva di corpo, della definizione del corpo come percezione soggettiva che ciascuno possiede, ma anche come corpo sociale, corpo politico, corpo all'interno delle relazioni di produzione e di potere. E il primo incontro che abbiamo organizzato, quello di tipo seminariale, con l'intervento di Marco Pustianaz, sarà appunto questo mercoledì e l'intenzione è quella di ragionare su una diversa mappatura delle prospettive di corpo per vederlo da differenti punti di vista e provare a ragionare a partire dal basso, a partire da quelle che possono essere le nostre domande. Sì, l'intento insomma anche un po' di questo incontro è di insomma organizzare un appuntamento il più interattivo possibile, proprio a partire dalle domande che ognuno di noi può sviluppare a partire dal concetto di corpo, in modo appunto che sia proprio un incontro iniziale con cui dotarsi di alcuni strumenti con cui poi affrontare i prossimi appuntamenti del seminario che si terranno rispettivamente ad aprile e a maggio. Avremo altri ospiti in programma, in particolare il laboratorio Smascheramenti di Bologna, e poi ad aprile, poi a maggio avremo Cristian Loiacono e Barbara De Vito. Insomma, ci sarà poi sicuramente spazio nelle prossime puntate per approfondire insomma meglio i singoli appuntamenti, però nel frattempo volevamo appunto presentarvi questo primo incontro di mercoledì e anche il programma nel suo complesso. Ovviamente l'invito è non solo quello di partecipare, ma anche di seguire tutto il percorso attorno a What's Body, che ormai appunto è partito da qualche settimana, ha già avuto un appuntamento che era stato quello della proiezione del documentario sulla Pink Gang. Quindi l'invito ovviamente è sempre aperto per intervenire, inserirsi con contributi di qualsiasi tipo. Nel frattempo appunto rimandiamo a mercoledì 20 marzo alle 17:30 a Palazzo Nuovo per questo primo incontro con Pustianaz. Quindi vi aspettiamo tutti e tutte, l'incontro chiamato Geografie dei corpi, generi, desideri, rappresentazioni, appunto in Aula 9 a Palazzo Nuovo questo mercoledì pomeriggio. Sono le 17 tra pochissimo, quindi ci prepariamo a lasciare i microfoni ad Anima Radio. Vi lasciamo ancora ad un pezzo musicale, rimanete sintonizzati sui 105.250 che vi terranno compagnia in questa domenica di neve. Noi ci risentiamo come sempre domenica prossima, sempre dalle 16 alle 17. Un ultimo saluto va per questa domenica a Casta, che terrà la sua ultima trasmissione questa sera, Ragione e Sentimento, quindi vi invitiamo ad ascoltarla e a mandarle un caloroso abbraccio per la sua ultima puntata. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca e da Ilaria. A sentirci domenica prossima. Oh my love, oh my love, I can't hear you, my love. Tell me where have you gone? Oh my love, I can't taste you, my love. Tell me, what have I done? Plug it in, so I can digest you. I will taste you. Tidings. shaking, my love. Can't you be the one? I can't fake it, my love. I need feeling, come on. I need it. Sentire che si siede, questa bella gente quando